sama dia, dibilangin teman-teman. Cie cie. Update status tentang dia di komen nih teman-teman. Cie cie. Aku foto sama dia di komen nih teman-teman. Cie cie. Cie cie, cie cie, cie cie.